Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi ascoltatori un caro saluto, un saluto a coloro che sono in ascolto, a coloro che ascoltano dalla loro casa, mentre sono in viaggio, mentre si trovano in situazioni particolari. La nostra trasmissione da alcune serate sta dedicandosi al libro del Nuovo Testamento degli Atti degli Apostoli. Stiamo facendo una lettura continua di questo libro con un triplice obiettivo. Il primo obiettivo è quello di cogliere la strategia narrativa dell'Evangelista Luca e vedere come la narrazione di questo libro adagio adagio apre scenari inediti. È un po' come un orizzonte che all'occhio dell'ascoltatore si allarga sempre di più e con l'allargarsi della vista si allarga anche il cuore, un cuore che Luca vuole educare ad abbracciare il mondo intero. Quindi la prima nostra attenzione è proprio a questa strategia narrativa dell'Evangelista Luca. La seconda attenzione è quella di avere la finezza dell'approccio al testo, cioè il testo biblico spesso viene letto come un insieme, un tutt'uno, ma oltre all'attenzione all'insieme ci vuole sempre con la delicatezza e la finezza di stare attenti al dettaglio, perché dietro ogni parola, dietro ogni sfumatura si nasconde spesso un messaggio che è prezioso per ciascuno di noi. Infine, l'ultimo obiettivo della nostra trasmissione è quello di tenere uniti la testa e il cuore, la ragione e la fede, l'approfondimento culturale e la vita concreta, in modo che la parola che noi approfondiamo insieme lungo questo appuntamento mensile possa in qualche modo incidere sulla nostra vita, sulla vita di chi parla prima di tutto e sulla vita di chi ascolta. Come sapete, ogni nostro appuntamento è sempre scandito in due momenti. Un momento in cui voi vi ponete in ascolto di quello che io cerco di dirvi, della parola di Dio, e un secondo momento in cui io mi pongo in ascolto di voi, delle vostre domande, dei vostri interrogativi, che sono sempre preziosi perché ci permettono di approfondire delle prospettive, degli angoli di lettura delle pagine di Luca che magari rischierebbero di passare sotto silenzio o di essere trattate dal sottoscritto con superficialità. Quindi vi ringrazio fin d'ora per quanti di voi avranno l'umiltà e anche il coraggio di intervenire ponendo domande o facendo considerazioni che non per forza devono essere d'accordo con la mia prospettiva, spesso il confronto è sempre arricchente. La pagina su cui ci vogliamo soffermare oggi è una pagina importantissima degli Atti degli Apostoli e che ben si inserisce nel momento liturgico ed ecclesiale che stiamo vivendo, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La pagina a cui ci dedichiamo è il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli e più precisamente l'episodio che descrive il grande momento della Pentecoste. Noi ci dedicheremo ai versetti del capitolo 2 che vanno dall'1 al 41, è una sezione abbastanza estesa, dove oltre all'evento della Pentecoste ci sarà anche un discorso, il primo grande discorso di Pietro in cui l'Apostolo cerca di illustrare e spiegare il significato di quello che è successo. Proprio perché il protagonista della pagina di oggi è lo Spirito Santo, è a lui che chiediamo di illuminarci in questa nostra trasmissione, perché possa rendere chiare le parole di chi parla e soprattutto docili i cuori sia di chi parla sia di chi ascolta a quelle che sono le luci che vengono dalla parola di Dio. A quanti di voi sono nella possibilità di farlo, chiedo di prendere un'edizione della Bibbia e di aprirla proprio al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Il testo su cui ci soffermiamo scandiremo praticamente in cinque piccoli momenti. Il primo momento descrive l'evento della Pentecoste, Il secondo momento, i presenti a questo evento, e vedremo, i presenti hanno un ruolo significativo e un messaggio da comunicarci. Dopodiché ci sarà il discorso di Pietro. Il discorso di Pietro è anch'esso diviso in tre parti. La prima parte è il richiamo dei testi dell'Antico Testamento. Su questa base Pietro passa un secondo momento in cui annuncia il Cristo morto e risorto. La terza fase è quella delle conseguenze per chi sta vivendo quel momento. Quindi dall'episodio di Pentecoste si passa al discorso di Pietro, tutto narrato in un modo molto conseguenziale. Cominciamo con i primi versetti, sono i versetti dall'1 al 4 che ci descrivono l'evento della Pentecoste. Ascoltiamo il testo. Mentre si compiva il giorno di Pentecoste, tutti si trovavano insieme nello stesso luogo. D'un tratto venne dal cielo un fragore, come di un vento impetuoso, che riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito permetteva loro di esprimersi. Allora, questo è l'evento. L'evento in sé, il momento della discesa dello Spirito Santo, viene descritto in modo molto sintetico. Solo quattro versetti per descrivere un evento che avrà una portata eccezionale, perché inciderà in modo decisivo sulla storia della comunità cristiana. La prima cosa da evidenziare è la cornice in cui questo episodio avviene. Il testo dice, mentre si compiva il giorno della Pentecoste. Allora, per capire bene questa cornice, noi dobbiamo un attimo accostare la Pentecoste al primo secolo, cioè che cos'era la Pentecoste prima che assumesse il significato del dono dello Spirito Santo alla comunità cristiana, cioè come l'ebreo, il Dio ebreo del primo secolo viveva questo momento, che cos'era per lui la festa della Pentecoste. La Pentecoste era prima di tutto la festa della riconoscenza, era la festa del grazie. Dopo sette settimane, notate, i numeri non sono casuali, il 7 è il numero della pienezza, il 7 per 7 è proprio la pienezza al massimo, quindi la Pentecoste rappresenta il compimento di che cosa? Il compimento di un cammino che il popolo aveva iniziato con la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, con il momento della Pasqua. Quella liberazione aveva dato origine ad un compimento che trova la sua pienezza nelle sette settimane che seguono all'uscita dall'Egitto. Non a caso è la festa del grazie in cui si presentavano al Signore le primizie della terra. Perché il seme che era stato gettato, il seme della vita nuova che era stato inaugurato con la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, da cui era nato un nuovo popolo, comincia a portare i suoi frutti. Quindi la riconoscenza, la Pentecoste come festa della riconoscenza richiamava questo, i primi frutti venivano portati al Tempio in segno di riconoscenza al Signore per quello che aveva fatto scaturire da quello che erano i semi che un tempo erano stati seminati. Attorno al secondo secolo avanti Cristo, a questo significato, che era un significato, se volete, anticamente di carattere agricolo, cioè il popolo presentava le primizie alla divinità, a questo significato prettamente agricolo si aggiunge un significato fortemente teologico. La festa della Pentecoste nel secondo secolo avanti Cristo diventa presso il popolo ebraico la festa dell'alleanza inizialmente di Dio tra i popoli, per cui era la solennità in cui si ricordava l'alleanza più antica che Dio aveva stipulato con i suoi figli, che era l'alleanza noachica, l'alleanza di Noè, quella siglata dal famoso arcobaleno, in cui Dio con tutti i popoli della terra si era legato ad una promessa che era quella di che non li avrebbe mai più distrutti, mai più sarebbe successo una cosa come quella del diluvio. Ora, questa prima alleanza che abbracciava tutti i popoli nel primo secolo avanti Cristo diventa il ricordo dell'alleanza peculiare di Dio con il suo popolo, con il popolo di Israele, attraverso quello che è il dono della Torah, il dono della legge. Ecco perché dal primo secolo avanti Cristo fino ad oggi questo diventa il significato dominante della festa della Pentecoste, non solo la festa della riconoscenza, ma anche la festa dell'alleanza, in cui si ricorda il dono della Torah, quindi della parola di Dio a Israele. Pensate, ancora oggi il 50° giorno, da cui deriva proprio il nome Pentecoste, il 50° giorno della festa delle settimane, delle 7 settimane, è preceduto da una notte di veglia in cui il Dio ebreo legge ad alta voce la Torah. Legge ad alta voce la Torah, due sono i libri che dominano questa festa, durante la notte la lettura del Pentateuco, durante il giorno la lettura del libro di Ruth. Perché il libro di Ruth? Perché Ruth richiama due episodi, il primo è quello del raccolto, ricordate, questa donna straniera va a spigolare nei campi in seguito al raccolto e in questo modo incontra il suo futuro marito che sarà il padre di Jefte, da cui deriverà poi la discendenza davidica. E anche lì questa donna, una straniera, viene accolta nel popolo, ecco il segno dell'alleanza di Dio tra i popoli. Quindi festa della riconoscenza da un lato per il raccolto, festa dell'alleanza con il popolo dall'altro, che richiama il dono della Torah. Ecco, questo significato dell'alleanza di Dio con i suoi richiama un pochino i segni che caratterizzano il racconto di Luca. Luca ci dice: d'un tratto venne dal cielo un fragore di vento impetuoso, le lingue di fuoco. Il vento, il fuoco, il fatto che questi due segni straordinari dominano l'intera scena e coinvolgono tutti i presenti, richiamano la grande teofania che era avvenuta sul Monte Sinai, nel momento in cui venne dato il dono della legge al popolo. In quel momento il vento, il fuoco dominavano la scena e la voce di Dio si divideva in mezzo a tutti i presenti. Quindi quella scena narrata al capitolo 19 del libro dell'Esodo, dal versetto 16 in poi, è qualcosa che fa da sfondo a questo evento che viene narrato da Luca. Notate la sottolineatura, una piccola sottolineatura di questo episodio, Luca tiene a precisare che tutti si trovavano insieme nello stesso luogo, e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Attenzione, lo Spirito Santo scende là dove c'è comunione. E vedremo cosa significa questa coinonia, questa comunione. Ecco perché ha senso dedicare proprio un'intera settimana proprio di preghiera all'unità dei cristiani. L'unità della Chiesa è condizio sine qua non perché lo Spirito possa far sentire la sua voce, altrimenti la sua voce resta per certi aspetti come confusa, offuscata. Ecco, descritto l'evento, Luca tiene a dedicare qualche versetto ai presenti a questo evento, ed è ciò che lui descrive nei versetti dal 5 al 13. Allora ascoltiamo un attimo come continua il testo. Scrive Luca: in quel tempo soggiornavano a Gerusalemme uomini giudei devoti provenienti da ogni nazione che è sotto il cielo. Udita quella voce, la folla si raccolse e rimase sbigottita perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Sbalorditi e meravigliati commentavano: «Ecco, costoro che parlano non sono tutti Galilei? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Parti, Medi ed Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, nonché della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle zone della Libia intorno a Cirene, e romani residenti, giudei e proseliti, cretesi ed arabi, vi udiamo raccontare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Sbalorditi e perplessi commentavano l'un l'altro: «Ma cosa significa tutto ciò?» Altri però, deridendoli, dicevano: «Sono ubriachi fradici». Ecco, la descrizione dei presenti è molto significativa, perché notiamo prima di tutto una cosa: tutte le persone coinvolte, i presenti a questa scena, sono tutti residenti a Gerusalemme. Il testo dice: in quel tempo soggiornavano, quindi erano residenti, a Gerusalemme. Quindi i residenti nella città santa assistono a questo. Chi sono questi che risiedono a Gerusalemme? Giudei, quindi ebrei doc, devoti, quindi osservanti, provenienti da ogni nazione che è sotto il cielo. Allora scopriamo che la città santa del primo secolo era una sorta di microcosmo che rappresentava un pochino tutti i popoli circostanti. Noi sappiamo dagli storici del tempo, Giuseppe Flavio ne è un esempio, che a Gerusalemme non esisteva solo un tempio che faceva da polo di unità per tutti gli ebrei sparsi nella diaspora, cioè nei diversi territori dell'impero romano, ma c'erano anche tante sinagoghe, ognuna delle quali faceva da riferimento alle diverse parti di provenienza. E le diverse parti di provenienza sono tutte elencate. Se uno dovesse avere davanti la mappa del primo secolo con le regioni del primo secolo, notiamo che Luca le percorre in senso antiorario, cominciando dall'est, muovendosi verso ovest e poi tornando nella zona di Gerusalemme, di Creta e dell'Arabia. E facendo il giro del mondo conosciuto da lui allora, in senso antiorario, notiamo che tutti questi popoli sono come mescolati con un popolo, che è il popolo che domina, il popolo dominante, il popolo romano. Quindi Gerusalemme viene presentata come una città che è custode dell'universalità, una città che è custode dell'universalismo, dove questo universalismo è come custodito da Dio. E all'interno di questo universalismo ci sono due anime che premono. Da un lato c'è l'anima dell'impero, il cui obiettivo è quello di uniformare schiacciando, dall'altra invece c'è l'azione discreta dello spirito, che tutela le differenze mettendole l'una al servizio dell'altra. È interessante, spesso noi leggiamo l'episodio della Pentecoste sullo sfondo dell'episodio di Babele, dove l'unica lingua viene frantumata nelle lingue più diverse e la gente non si capisce più, come se la punizione di Dio fosse stata la diversità dei popoli. È un abbinamento che spesso utilizza un'ermeneutica, una linea di interpretazione sbagliata. Perché? Perché nell'episodio di Pentecoste avviene l'esatto contrario, cioè lo Spirito non vuole condurre tutti ad unità, ad un'unità, all'unico pensiero, all'unico modo di fare, no, lo Spirito tutela la differenza, tanto vero che quelli che parlano vengono capiti nelle diverse lingue, per cui c'è il rispetto della differenza, dove la differenza diventa un valore. Gerusalemme, vi dicevo, è custode della differenza, è custode dell'universalismo. Quindi Se l'impero schiaccia e vuole uniformare tutti in un unico cliché, lo spirito invece libera, creando comunione nella diversità. Tanto vero che lo spirito è generatore di carismi e ognuno si differenzia dall'altro nel proprio carisma. Però la differenza dei carismi crea, quando vissuti nella comunione, crea l'unico corpo. Ed è interessante anche la reazione dei presenti. Ci viene detto che da un lato ci sono presenti che si interrogano e che dicono ma cosa significa tutto ciò, sbalorditi e perplessi, dall'altra ci sono altri che dicono sono ubriachi fradici. Perché sono ubriachi fradici? Ma anche qua l'aggancio è agli usi e ai costumi di come era vissuta la Pentecoste nel primo secolo. La Pentecoste, proprio perché era la festa in cui si lodava per il dono della Torah, era la festa della riconoscenza, era caratterizzata da un tono particolarmente festoso che si manifestava anche a tavola attraverso la presenza di due ingredienti. Il primo era il latte e il miele. Perché il latte e il miele? Perché erano segni di abbondanza, segni della prosperità della terra promessa. L'altro era il vino, il frutto della vigna, il frutto della vite. Per cui la festa era accompagnata da questi due elementi, per cui i presenti, sapendo come avveniva questa festa, giudicano coloro che sono coinvolti nella prima grande Pentecoste come se avessero bevuto troppo durante la notte. Quindi è importante sempre tenere presente tutto questo. La cosa curiosa è che questa scena, che noi in genere pensiamo o immaginiamo coinvolgere solo poche persone, in genere le rappresentazioni iconografiche presentano i dodici con Maria, e di per sé coinvolge molte più persone. Sono sicuramente più di 100 dalla testimonianza di Luca, la prima comunità, poi con tutti i presenti. Lo Spirito Santo, lo vedremo alla fine del racconto di Pietro, lo Spirito Santo coinvolge molte più persone e da poche persone si arriva a 3.000 persone coinvolte nell'episodio della Pentecoste. Luca non si pone il problema perché sta dicendo che sono tutti nella stessa casa, nella stessa sala, al piano superiore, questo è il nucleo originale, e davanti a loro ci sono tutte queste persone. Ora, se sono 3.000, uno fa un attimo fatica da un punto di vista logistico a dire ma dove le mettiamo 3.000 persone in una Gerusalemme che era caratterizzata da tante dimore tutte vicine l'una all'altra come quella del primo secolo. Però a Luca non interessano questi dettagli, il messaggio che lui vuole dare è un messaggio teologico. Il cuore della comunità cristiana è già un cuore universale. Ecco, prima di passare al discorso di Pietro, lasciamo ora un breve stacco musicale, in modo che ciascuno di voi può rileggere questi primi versetti e riusciamo, attraverso il discorso di Pietro, a coglierne insieme poi l'importanza. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella nostra riflessione. Ecco, dopo il dono dello Spirito Santo avvenuto in una comunità raccolta insieme, quindi l'unità come parte del dono dello Spirito, che si manifesta anche nel tutelare la differenza delle diverse rappresentanze di questa comunità, di fronte all'accusa di chi deride sono ubriachi fradici, Pietro interviene e prende la parola. Come vi dicevo prima, il discorso di Pietro, che si snoda dal versetto 14 al versetto 41, lo possiamo suddividere per comodità e per chiarezza in tre momenti. Un primo momento dedicato all'Antico Testamento, un secondo momento dedicato all'annuncio di Gesù, quindi al nuovo, quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, il terzo momento alle conseguenze etiche, si può dire, del dono della Pentecoste. Allora, cominciamo con l'inizio del discorso, quello dedicato alla rievocazione delle pagine bibliche di Israele, i versetti 14-21. Pietro, levandosi insieme agli undici, cominciò a parlare e rivolgendosi loro si espresse così: «Uomini di Giudea e abitanti tutti di Gerusalemme, a voi sia noto questo e ascoltate con attenzione le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi pensate, sono soltanto le 9 del mattino, ma avviene quanto è stato detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni, sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni, effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Darò prodigi lassù in cielo, e segni quaggiù in terra, sangue, fuoco e denso fumo. Il sole diventerà oscuro e la luna insanguinata, prima che venga il giorno del Signore grande e splendido. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Allora, notate che nella prima parte del discorso, prima di tutto, notiamo ancora l'unità. Pietro parla, ma non è da solo. Pietro, levandosi insieme agli undici, cominciò a parlare. Si alzano tutti, quasi a manifestare proprio l'unità di questa comunità. È un unico corpo, a cui uno dà voce, ed è Pietro. Notate, Pietro inizia offrendo come chiave di lettura una pagina dell'Antico Testamento, una pagina dei profeti, la pagina di Gioele. Ed è interessante, la pagina di Gioele che lui cita è una pagina che abbraccia le diverse tipologie presenti nel popolo. Si parla di figli e di servi, si parla di uomini e di donne, si parla di giovani e di anziani. Poi, come se le categorie umane non bastassero, si passa alle categorie geografiche e astronomiche, si parla dell'assù e quaggiù, si parla del sole e della luna, cioè è tutto l'universo che viene coinvolto in un evento, in un episodio, e questo episodio è l'episodio della Pentecoste, l'episodio del dono dello Spirito Santo. L'elemento forte di inizio di questo discorso è l'elemento comunitario. Non solo Pietro e gli undici si alzano tutti insieme, ma il dono dello Spirito, che per Israele era il dono della profezia, non viene più riservato a singole persone. Non è più il singolo profeta, Gioele, Geremia, Isaia, Ezechiele, non è più il singolo a farsi portavoce di Dio, ma un intero popolo. In questo sta la forza della profezia di Gioele. Profeteranno figli e figlie, schiavi e liberi, uomini e donne, giovani e anziani, è un intero popolo che diventa profeta. E questo lo si nota quando noi mettiamo a confronto il testo di Gioele con la citazione che ne fa Luca. Luca fa dei piccoli interventi a quel testo di Gioele, proprio per sottolineare il cambiamento portato dallo Spirito Santo. Cita Gioele, ma un pochino lo modifica per piegarlo al messaggio che lui vuole dare, cioè che un popolo diventa profeta. E allora qui sta la forza, no, del messaggio già che Pietro dà. Pietro è convinto, siamo all'alba del cristianesimo, Pietro è convinto che non è il singolo apostolo che comunica, che vive e testimonia il Vangelo, che non è il singolo cristiano che si fa testimone di Cristo, ma lo Spirito accompagna la testimonianza quando quella testimonianza è resa da una comunità. L'esperienza cristiana nasce fin dalle origini come esperienza comunitaria. Se viene meno il tessuto comunionale della prima comunità, ecco, il Cristo rischierebbe di non avere la giusta testimonianza. E la citazione di Gioele si conclude con quel versetto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Evidentemente Gioele nel suo discorso, quando parlava del nome del Signore, parlava del nome di Dio. Sulle labbra di Pietro, chi è il Kyrios, il Signore di cui egli parla? È ciò che viene subito esplicitato nella continuazione del discorso. E la continuazione del discorso la troviamo nei versetti da 22 a 36, che ora leggiamo. Israeliti, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio presso di voi, con miracoli, prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui in mezzo a voi, come ben sapete, questo Gesù, per il prestabilito consiglio e la prescienza di Dio, catturato da uomini senza legge, voi l'avete messo a morte inchiodandolo sulla croce. Dio però lo ha risuscitato, avendo sciolto le doglie della morte, perché non era possibile che egli rimanesse in suo potere. Davide, infatti, dice di lui, contemplavo sempre il Signore dinanzi a me, perché egli sta alla mia destra affinché io non vacilli. Per questo si rallegra il mio cuore ed esulta la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita nell'Ade, né permetterai che il tuo santo conosca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito parlarvi con franchezza riguardo al patriarca Davide. Egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi tra noi. Essendo dunque profeta, e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che un suo discendente carnale si sarebbe seduto sul suo trono, previde e predisse la risurrezione del Messia, il quale non fu abbandonato nell'Ade, né la sua carne conobbe la decomposizione. Quando Gesù, questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e tutti noi ne siamo testimoni. Esaltato dunque alla destra di Dio e ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso. Questo voi state vedendo e ascoltando. Davide infatti non è salito nei cieli, ma dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi. Riconosca dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Messia questo Gesù che voi avete crocifisso. Ecco, questa seconda parte del discorso sviluppa l'ultima frase della prima. Abbiamo detto che Pietro iniziava il discorso citando una pagina profetica, la pagina di Gioele, e terminava dicendo «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». La domanda che nasceva era «Quale Signore?». Il Signore per Pietro è Gesù, come termina proprio la seconda parte del discorso. Riconosca con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore questo Gesù che voi avete crocifisso. Ora però, per arrivare qui, Pietro fa fare un cammino ai suoi ascoltatori. Prima di tutto ricorda la vita di Gesù. Dio che è passato attraverso Gesù in mezzo a voi con segni, miracoli e prodigi. Ricorda la sua morte, catturato da uomini senza legge, è stato messo a morte inchiodandolo sulla croce, ne ricorda la risurrezione e poi su questo fa tutta una riflessione. Israele, quelli che ascoltano sono tutti pii ebrei, per questi pii ebrei il punto di riferimento del popolo è il re Davide, e il re Davide riletto come colui che avrebbe preconizzato il Messia, cioè un giorno Israele, tanto più nella città di Gerusalemme, che era la città del re Davide, Gerusalemme aspettava il ritorno del Messia come il ritorno di Davide, come se Davide alla sua morte non fosse finito, la sua vita fosse continuata in altro modo, no? Ora, Pietro parla in modo molto chiaro a chi lo ascolta, dice, ma come Davide ha parlato di tutte queste cose, cita dei brani dei Salmi e dice, ma non parlava di se stesso, non poteva parlare di se stesso, perché? Ma perché la sua tomba l'abbiamo qui in mezzo a noi. Quindi, se la sua tomba è in mezzo a noi, vuol dire che Davide non solo è morto, ma il suo corpo in quella tomba va decomponendosi. Invece Davide aveva chiaramente detto nei Salmi che il Messia non avrebbe visto la sua vita abbandonata nell'Ade, né avrebbe conosciuto la corruzione. Come facciamo allora a pensare che torni un giorno il re Davide? No, il vero Messia è un altro, è Cristo che Dio ha liberato dalla morte. Lui veramente non ha conosciuto corruzione, lui veramente non è stato tenuto prigioniero dell'Ade e lui, dopo aver ricevuto lo Spirito, l'ha donato a tutti noi che siamo qui. E questo episodio è quello che vi coinvolge tutti. Lui è quel Signore che Dio ha fatto sedere alla sua destra, ponendo tutti i nemici come scabello dei suoi piedi. Da qui capiamo la conclusione, come le fila che Pietro tira per i suoi ascoltatori. Riconosca dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore, Kyrios, e Messia, Christos, questo Gesù che voi avete crocifisso. Notate l'unità del mistero pasquale, la croce è sempre presente. E allora capiamo una cosa già da questo discorso di Pietro, che il dono dello Spirito rende, porta come primi frutti, prima di tutto un'intelligenza delle scritture. Il discernimento di leggere la parola di Dio sapendone schiudere il significato e secondo porta al centro della vita la figura di Gesù, recependolo, accogliendolo come Kyrios, come Signore della vita, come unico punto di riferimento e come Christos, colui che compie le attese più profonde che noi portiamo dentro il cuore. Ecco, prima di vedere come questo discorso di Pietro giunga poi a conclusione, quali effetti suscita in coloro che ascoltano, facciamo ancora un breve stacco musicale. Dopodiché tireremo le somme del discorso di Pietro e anche un pochino della riflessione che stiamo facendo attorno all'episodio della Pentecoste. Quindi abbiamo visto un pochino il discorso di Pietro, prima una grande pagina tratta dal profeta Gioele, da questa pagina scaturisce l'annuncio di Gesù con un confronto, mettendolo a confronto con Davide, e quali effetti ha questo discorso di Pietro? Lo notiamo dagli ultimi versetti che commenteremo, cioè i versetti dal 37 al 41. Ascoltiamo il testo. Ascoltate queste cose. Si sentirono trafiggere il cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: cosa dobbiamo fare, fratelli? Pietro rispose loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, perché siano perdonati i vostri peccati. Allora riceverete in dono lo Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti i lontani, quanti il Signore Dio nostro chiamerà. Con molte altre parole rese testimonianza e così li esortava: lasciatevi salvare da questa generazione perversa. Quelli dunque che accolsero la sua parola si fecero battezzare ed in quel giorno furono aggregate circa 3.000 persone. Ecco, la comunità da un gruppo di 120 persone. Questo numero ci viene dato da Luca stesso al versetto 15 del primo capitolo, da 120 persone arriva a 3.000 e lo Spirito Santo che era sceso sui 120 arriva adesso al secondo grosso momento, il momento della discesa sui 3.000. Notate come agisce lo Spirito. Prima di tutto lo Spirito trafigge il cuore. Ascoltate queste cose, si sentirono trafiggere il cuore. quella che i padri della Chiesa invocano sempre come la compunzione del cuore, uno dei doni più preziosi nella vita di un discepolo di Cristo. E poi chiedono ai fratelli, a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli. Notate, il comportamento viene dalla, cioè le conseguenze sul comportamento nascono da un'esperienza personale che precede. Non è l'imperativo, non è il dire devi far così, non devi far così, che vince sulla persona. Ciò che vince sulla singola persona è il sentirsi trafiggere il cuore, che è un dono dello Spirito. E a quel punto Pietro risponde dicendo: convertitevi, perché per voi è la promessa. Quelle parole che abbiamo ascoltato in Gioele, quelle parole che io ho detto in riferimento a Gesù e a Davide, queste sono per voi, per i vostri figli, notate, notate cosa dice Pietro, e per tutti i lontani. Allora, lo Spirito già rende l'apertura alle genti, non è il frutto della conversione dell'Apostolo Paolo, come spesso diciamo. Certo, Paolo ha dato una spinta notevole, Io come paolino ci mancherebbe che non difendo l'Apostolo Paolo, Però l'apertura all'universalismo, l'apertura alle genti, l'apertura ai pagani negli Atti degli Apostoli non è il frutto dell'azione di Paolo, precede, è il frutto dell'azione dello Spirito. Paolo si inserisce in un percorso dove lo Spirito ha già aperto delle porte attraverso dei cristiani anonimi, e lo vedremo andando avanti nella lettura e nel commento degli Atti degli Apostoli. E già qui c'è in luce tutto. La promessa è per voi e per i vostri figli. Abbiamo visto chi sono queste persone presenti a Gerusalemme. Sono i rappresentanti di tutto l'ebraismo della diaspora. Però non è solo per voi e per i vostri figli, per tutti i lontani, quanti il Signore Dio nostro chiamerà. E allora è una comunità che viene accolta attorno ai 120, ma è già una comunità aperta alle periferie, una comunità che ha le porte aperte e in grado di abbracciare il mondo intero. Con molte altre parole rese testimonianza, e quelli che accolsero la sua parola si fecero battezzare, furono aggregate 3.000 persone. Il numero qui non è che ha un significato simbolico, il numero indica l'eccedenza dello Spirito e l'allargamento forte di questa comunità. Se voi avete ascoltato con attenzione il modo in cui Luca narra il discorso di Pietro, avrete forse notato il modo come Pietro si rivolge nelle tre parti del suo discorso. Inizia rivolgendosi agli israeliti, il termine greco parla di andres adelphoi, cioè uomini fratelli, inizia con uomini fratelli. Da questi uomini fratelli si passa in un secondo momento con uomini di Israele, passa a uomini fratelli, quindi c'è un passo ulteriore, si arriva poi alla casa di Israele. C'è nel discorso di Pietro, è una tessitura di fondo che mostra come man mano Pietro parli si crea una relazione tra coloro che ascoltano. Prima sono dei semplici figli di Israele, questi figli di Israele lentamente diventano fratelli e dall'essere fratelli diventano un'unica casa, una casa di Israele che è raccolta attorno all'unico Signore chiamato Cristo, Signore e Messia di questo popolo. E allora capiamo, cari ascoltatori, che l'evento della Pentecoste, così come viene narrato da Luca, contiene già in nuce tutto quello che verrà poi sviluppato negli Atti degli Apostoli. Quella festa che abbiamo visto alle origini porta già in sé i segni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo educa i cuori alla riconoscenza, perché nasce la Pentecoste dalla festa della riconoscenza. Lo Spirito Santo ci fa rimanere nell'alleanza, perché nasce dalla festa dell'alleanza. Lo Spirito Santo ci porta al dono della comprensione della parola di Dio, perché contempla il dono della parola di Dio a Israele. Lo Spirito Santo mette la gioia nel cuore, perché nasce da una festa segnata dal latte, dal miele e dal vino, come abbiamo avuto modo di vedere. Non solo, ma in quegli effetti che in genere vengono evidenziati dal dono delle lingue e dalle lingue di fuoco che si dividono e si posano su ciascuno dei presenti, ci ricorda che lo Spirito Santo è amico della diversità. Coloro che non sanno accogliere la differenza e la diversità sono coloro che non possono definirsi discepoli o guidati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo forma corpi e comunità che sono comunità aperte, in grado di abbracciare l'altro, chiunque esso sia. Quando nelle nostre parole, nelle nostre scelte, nei nostri gesti avviene qualcosa che non va in questa linea, questo qualcosa non è opera dello Spirito Santo, ma è opera dello spirito nemico. E poi siamo stati condotti da questo stupendo discorso di Pietro, che prima di tutto si dà la mano al profeta Gioele, mostrando come è giunto il tempo del compimento della pagina di Gioele. Dal profeta Gioele ci conduce a Cristo e in Cristo apre le porte della comunità a 3.000 persone, da 120 a 3.000, inaugurando il cammino che il cristianesimo sta ancora percorrendo oggi. Grazie quindi del vostro ascolto, ora è il vostro turno. Quindi lasceremo un altro stacco musicale in cui dalla regia vi saranno date alcune indicazioni per rivolgere le vostre considerazioni, e quindi restiamo ancora vicendevolmente in ascolto di questa parola che ci ha accompagnato questa sera. Con chi parlo? Buonasera, sono Antonello, chiamo da Olbia, dalla Sardegna. Mi dica. Volevo sapere se lo spirito paraclito, se lo spirito di cui parla, si riferisce allo spirito che è sceso nella festa delle Pentecoste per la conversione del popolo di Israele da 120 a 3.000, se è paraclito, cioè lo spirito. La ringrazio, grazie Antonello. Sì. Allora, ringraziamo Antonello per questa sua prima domanda. Mi chiede se lo spirito di cui abbiamo parlato è lo spirito paraclito. Certo. Lo Spirito Santo è uno solo, nelle pagine della Scrittura è sempre lo stesso spirito che agisce, a cui noi diamo dei titoli diversi, e la definizione di paraclito la troviamo proprio in azione in questa pagina, soprattutto in due momenti. Il primo momento la troviamo in azione nella reazione di Pietro all'episodio della Pentecoste, perché non appena nei primi quattro versetti ci viene descritto che gli undici insieme a Pietro hanno ricevuto il dono dello Spirito, la prima reazione che fa quando vengono contestati qual è? Quella di alzarsi in piedi e dire: ma ascoltate, le cose non sono così. Laddove al versetto 13 ci veniva detto, alcuni deridendoli dicevano: sono ubriachi fradici, Pietro, levandosi insieme agli undici, cominciò a parlare. Pietro non era uno che parlava di frequente in pubblico, Quindi qua troviamo la prima azione del Paraclito. La prima azione del Paraclito è quella di dare la parresia, cioè la forza dell'annuncio, non aver paura di parlare e di dire le cose chiare. Il linguaggio di Pietro è un linguaggio vero, al punto tale che nel momento in cui lui parla, l'inizio del suo discorso non è che è un discorso molto diplomatico, perché se voi leggete al versetto 23 dice: questo Gesù voi l'avete messo a morte inchiodandolo alla croce, punto. Non è che da mezzi termini non è stato capito, allora per mani, per il giudizio di, no, voi avete, è una parola molto forte. Quindi notiamo la prima azione del Paraclito è dare fortezza. Però c'è anche l'altra azione del Paraclito, l'altra azione del Paraclito è la conseguenza del discorso di Pietro. Ascoltate queste cose, si sentirono trafiggere il cuore. L'azione dello Spirito è qui, dicevo che questo era uno dei doni più preziosi che i padri della Chiesa chiedevano, quindi non solo dà la forza, ma dà anche quella docilità al cuore, cioè rompe, frantuma la durezza del cuore in modo che il cuore possa essere plasmato, ferito, toccato, e questo mantiene, come dire, il cammino dell'uomo. Qua viene spontanea alla mia mente una delle frasi che il nostro fondatore, io appartengo alla famiglia Paolina, e il mio fondatore, Don Giacomo Alberione, ha voluto che in tutte le cappelle dei 10 rami della famiglia Paolina, 5 congregazioni religiose, 4 istituti e un'associazione di laici, cooperatori paolini, in tutte le nostre cappelle ci devono essere 3 frasi, e una di queste frasi è: siate in continua conversione. Per Don Alberione era chiaro: se uno rimane in continua conversione, cioè si lascia ogni giorno trafiggere il cuore, vuol dire che lo Spirito è con noi, e se lo Spirito è con noi non possiamo non essere fedeli al nostro Padre San Paolo. Se lo Spirito invece non è con noi è un guaio. Quindi lo Spirito non è solo colui che dà forza, è anche colui che trafigge il cuore. E il termine Paraclito contiene queste due accezioni, perché deriva da una parola greca con una preposizione che precede un verbo. Praticamente è un termine che ha queste due sfumature, ed è interessante che emergono proprio in questa pagina degli Atti. Grazie Antonello per la tua domanda. Pronto? Pronto, buonasera, sono Michele, chiamo da Pescia, in provincia di Pistoia. Senta padre, una curiosità, portando il suo discorso a livello pastorale, io anche negli anni in cui ho studiato teologia ho sempre pensato che il discorso di Pietro sia stato uno dei grandi discorsi pastorali di tutta la storia della Chiesa. Lei non crede che oggi ci sia bisogno di tornare a quello stile spesso asciutto, appunto come diceva lei, diretto, essenziale ma vero? Cioè, fra le tante cose che si dicono, spesso e volentieri non si dicono quelle necessarie. A Pietro gli viene chiesto che cosa fare per salvarsi, lui dice di farsi battezzare e praticamente di farsi abitare dallo Spirito. Lei che consiglio dà oggi, ad esempio, ai sacerdoti, ai pastori, per portare questo discorso così ricco nella pastorale e nell'omiletica di oggi? Grazie Michele per questa tua domanda, perché effettivamente tocchi un aspetto molto vero. Negli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli sono un libro che la cui trama è intessuta di discorsi. Ci sono i discorsi di Pietro nella prima parte, i discorsi di Paolo nella seconda parte, e ognuno di questi discorsi, soprattutto i primi che i due apostoli tengono, provate a fare una lettura anche del primo discorso che Paolo tiene durante la sua azione missionaria, sono veramente delle perle pastorali, perché dietro questi discorsi c'è una, come dire, una linea guida che viene consegnata a noi. Allora, Il primo elemento che emerge dal discorso di Pietro è la centralità, adesso utilizzo una parola che forse per qualcuno è un po' difficile, no? La centralità del cherigma, la centralità dell'annuncio di Cristo che soffre, muore, risorge. E guardate, a questa centralità ci ha richiamato in modo deciso nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco. A un certo punto lui richiama anche per la catechesi la centralità del cherigma, la centralità dell'annuncio di Cristo. Attenzione a trasformare la catechesi per i nostri ragazzi, per i giovani, per gli adulti, in tutta una serie di giochini, disegni da colorare o approfondimenti sociologici. Tutto ci vuole perché siamo incarnati in una cultura, ma e in una società di cui, che dobbiamo saper abitare e abbracciare, ma al centro ci vuole l'annuncio del Cristo morto e risorto. Altro elemento, come avviene questo annuncio? Attraverso il radicamento nella parola. Attenzione a emarginare la parola di Dio, l'abbiamo emarginata per tanti anni e su questo siamo stati rimproverati a lungo, forse anche un po' derisi, magari non tutto, non sempre a torto, dai nostri fratelli delle altre confessioni cristiane, che invece hanno saputo mettere al centro la parola di Dio. Grazie al Signore, grazie allo Spirito, siamo ritornati a questa parola di Dio. Ma attenzione, questa lettura deve saper essere una lettura di tutta la Scrittura, non solo di alcuni libri, non solo dei Vangeli. I Vangeli si comprendono alla luce di una comprensione estesa di tutta la parola di Dio, dove l'antico illumina il nuovo e viceversa, c'è una ricchezza vicendevole. Tutto questo però deve portare a quel lasciarsi trafiggere il cuore, altrimenti diventa uno studio che è sacrosanto, però quando si ferma solo alla testa non è che aggiunga molto, lo studio dalla testa deve passare al cuore, deve trafiggere il cuore. E un altro elemento che emerge da questo brano è l'apertura. La nostra comunità cristiana animata dallo Spirito è una comunità destinata a moltiplicare la vita, non ci si può accontentare per dire siamo già 120, la prima comunità non ha detto così, non ha detto siamo contenti perché siamo 120. La comunità dice, porta un annuncio e sa coinvolgere, grazie all'azione dello Spirito, molte altre persone. Per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti i lontani, non per qualche lontano, per tutti i lontani e per quanti il Signore vorrà chiamare, per quanti il Signore chiamerà. Quindi questo desiderio, no, di avere come dire, una comunità dalle porte aperte. Ovviamente a tutto questo, a questa parresia, si unisce anche la ricerca di una verità e la capacità di annunciarla, quella schiettezza che traspare da questo racconto e che è stata anche ben messa in evidenza da Michele di Pescia. Se non sbaglio, anche quelle regioni d'Italia sono famose per la schiettezza nel linguaggio, quindi è un dono dello Spirito quando questa è condita di umiltà e di ricerca autentica della verità. Grazie Michele per questa tua domanda. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Buonasera. E parla Sergio dal Veneto. Bene Sergio, mi dica. Senta per favore, una cosa molto semplice. Qui nel versetto 4, capitolo 2, si recita: tutti furono colmati di Spirito Santo. D'accordo. Allora però mi interessava sapere chi erano questi tutti, questo gruppo che ha ricevuto lo Spirito Santo, perché qui nel versetto 14, capitolo primo, è scritto che tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Ecco, questo mi interessa sapere, il gruppo che ha ricevuto lo Spirito Santo. Sì, grazie mille Sergio. Oggi siamo accompagnati proprio dagli ascoltatori uomini, Antonello dalla Sardegna, Michele da Pescia e Sergio dal Veneto. Soffermiamo l'attenzione proprio su chi ha ricevuto lo Spirito Santo. Ecco, giustamente Sergio ci riporta al versetto 14 del capitolo primo. Versetto 14 individua quei tre gruppi della prima comunità che abbiamo evidenziato nelle catechesi precedenti, dove ci sono i dodici, le donne e i fratelli di lui, cioè i parenti di Gesù che avevano aderito dopo la risurrezione al suo annuncio. Già allora dicevo che questi tre gruppi erano dei gruppi che non andavano proprio d'amore e d'accordo, rappresentano tre fazioni, le potremmo chiamare così, all'interno della prima comunità, tra le quali c'era un pochino di frizione, e in mezzo a loro Maria, che può essere considerata come la rappresentante di tutti e tre i gruppi, viene presentata da Luca come colei che tesse l'unità. Chi meglio di lei è donna? Chi meglio di lei è parente di Gesù? Chi meglio di lei può essere considerata discepola del proprio figlio? Quindi lei è colei che riesce a tessere in unità queste persone. Al versetto successivo Luca è ancora più esplicito e ci dice quante erano queste persone, cioè insieme a Maria, queste tre fazioni, come possiamo calcolare un gruppo della prima comunità? Dice, in quei giorni Pietro, alzandosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone in tutto, disse, fratelli, era necessario, eccetera, eccetera. Quindi le persone radunate nella prima comunità sono che fanno capo un pochino a questi tre realtà, sembrano essere 120. Quindi questi fratelli che sono uniti nella sala alta, che è il punto di riferimento in attesa del dono dello Spirito, dovrebbero essere queste 120 persone. In ogni caso, se non erano 120, erano comunque rappresentanti di questi tre gruppi, non c'erano solo i 12 e nemmeno solo i 12 con Maria. Ma c'erano i 12, c'erano le donne, c'erano i parenti di lui e Maria in mezzo a loro. Questo è sicuro, questo dato. Che poi fossero 120 o alcuni fossero a fare la spesa da qualche parte, questo non lo sappiamo. Sta di fatto che c'erano questi tre gruppi. Dopodiché dall'episodio di Pentecoste subito, perché Pietro reagisce subito alla polemica che fanno nei confronti di questo gruppo, subito il gruppo si estende. E questo ci fa capire che appena lo Spirito scende in una realtà, la mette sotto sopra, perché voi potete immaginare una comunità che sta appena adesso trovando una propria identità, un proprio equilibrio. Si associano 3.000 persone, ma vi rendete conto? 3.000 persone da gestire. Capisco che poi Pietro abbia avuto qualche difficoltà gestionale ed emerge nella continuazione del racconto. È chiaro che all'interno della Chiesa poi sono nate un pochino di tensioni. Perché? Perché non è stato facile. Pur con tutta la buona volontà di convertirsi e di lasciarsi immergere nel mistero di Cristo, però c'era tutta un'opera, come dire, di formazione, di accompagnamento, di ascolto, di accoglienza da operare, e non è stato facile, perché ogni persona entrando nella comunità portava un tratto diverso dall'altro, e a volte tra questi tratti c'era un po' di frizione. Ecco, Pietro è colui che ovviamente prenderà un pochino in carico tutto questo e lo accompagnerà. Grazie Sergio per questa domanda che, come vedi, ci ha permesso proprio di approfondire un dettaglio non secondario. Pronto? Buonasera Don Giacomo. Buonasera, con chi parlo? Allora, sono Maria e telefono dalla Sardegna. Perfetto, viva la Sardegna. Buonasera. Allora, finalmente la conosco non personalmente, ma attraverso la televisione, dopo sì. Averla sentita per tantissimi anni, 3 o 4 anni, mi pare, con il Vangelo di di Marco, Marco. Lectio Continua, sì, tutte le ho sentite le sue catechesi. E quindi adesso finalmente conoscevo una voce, adesso finalmente la conosco anche come persona, in televisione l'ho vista, e vorrei chiederle, lei ha parlato di una Bibbia non scritta, potrebbe spiegarmi questo dopo, per cortesia? Poi ho sentito che lei ha parlato di teofania, la teofania è manifestazione di Dio, ma come fa come può essere una teofania se Dio è puro spirito, non può farsi vedere, tutt'al più si può sentire la voce, quindi, ma non è, la voce non è una teofania, è una manifestazione di Dio. Poi ha parlato dello Spirito Santo, anche in chiesa i sacerdoti parlano sempre dello Spirito Santo, ma una signora mi ha chiesto, ma questo Spirito Santo chi è? Io ho risposto che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, e praticamente è un dono di Dio, però io penso ci sia molto, molto di più anche, quindi vorrei per cortesia che lei approfondisse questo concetto. Poi, con lo Spirito Santo ha parlato, lo Spirito Santo ha parlato di lingue eccetera, lo Spirito Santo parla in lingue ed è la glossolalia. Poi ha parlato anche della festa della Torah. La festa della Torah è inserita nella festa delle capanne? Domanda. Cominciamo dalla prima domanda, la teofania. Dicevo proprio all'inizio che la festa di Pentecoste nel popolo ebraico nasce come festa che ricorda il dono dell'alleanza da parte di Dio sul monte Sinai. In quel contesto, al capitolo 19 del libro dell'Esodo, se andate a leggerlo notate cosa si intende per teofania, Dio si manifesta non solo dando le tavole della legge a Mosè che è sul monte, ma fa capire la sua presenza in mezzo al popolo attraverso il vento, il terremoto e il fuoco. Tutto il Sinai è fumante. Alcuni immaginano che dietro questa manifestazione sia riconoscibile una eruzione vulcanica addirittura. Tenete però presente una cosa, che nella lettura globale dell'Antico Testamento Dio passa attraverso queste manifestazioni, ma ne sceglie anche altre. Ricordate quando Elia, nel suo cammino di ricerca di Dio, viene portato sullo stesso monte, l'Oreb, e viene portato nella caverna, nella grotta, nascosto, e dopodiché ci sono le varie manifestazioni. C'è il vento, e l'autore sacro dice, ma Dio non era nel vento. C'è il fuoco, ma Dio non era nel fuoco. Il terremoto, ma Dio non era nel terremoto. Finché ci fu il silenzio, quasi il soffio di un vento leggero, e Dio era nel silenzio. Quindi capiamo che la teofania, quella che noi chiamiamo teofania, che in greco significa proprio manifestazione di Dio, è qualcosa di misterioso che lascia passare il mistero di Dio. Ma non può mai essere associata ad una presenza delimitabile. Noi non possiamo racchiudere l'Eterno in un bicchiere. Questo è l'eterna tentazione dell'uomo, chiudere l'Eterno in un bicchiere, chiudere l'Onnipotente in un cliché, fare di Dio un bel quadretto da appendere. Ecco perché gli ebrei non amano i quadri, no? Perché? Perché sono una bestemmia, perché hanno già ridotto Dio a qualcosa di definito, cosa che non è possibile per Dio. Quindi anche qui il vento, le lingue di fuoco sono qualcosa che evocano la presenza di Dio, ma che non possono definire da sole Dio. Lo spirito chi è? Era la seconda domanda della signora Maria. Qua è un po' difficile da dare una risposta immediata. Quello che vi chiedo è questo. Abbiate pazienza di percorrere insieme, come lei signora Maria ha avuto la pazienza di percorrere insieme a me il Vangelo di Marco, no? In 3 anni. E siamo cresciuti tutti e due in questi 3 anni, perché la parola ci ha accompagnato. Abbiate la pazienza di percorrere insieme gli Atti degli Apostoli e vedrete come pagina dopo pagina lo Spirito si fa riconoscere. Oggi abbiamo scoperto due cose dello spirito. Lo spirito dà coraggio e lo spirito trafigge il cuore. Ma non è l'unica cosa. Vedremo cammin facendo quali sono le azioni dello spirito e impareremo a conoscerlo, a entrare in sintonia, si può dire, con lui. Terza cosa, la glossolalia, il dono delle lingue di cui si parla qui, corrisponde alla glossolalia? No, non corrisponde alla glossolalia, perché non ci viene detto che gli apostoli si mettono a parlare francese, inglese, tedesco, cinese, no, non viene detto questo. Ci viene detto che le persone che lo ascoltano li sentono parlare nella loro lingua, cioè c'è, come dire, lo spirito rende, favorisce la comunicazione, rende il messaggio della parola comprensibile a tutti, quell'annuncio del cherigma, quel primo annuncio, è reso comprensibile da tutti. Questo non significa che gli apostoli si sono messi improvvisamente a parlare le lingue di tutto il mondo. Gli studiosi tengono molto a precisare questa cosa. Lo spirito è colui che favorisce la comunicazione. Ecco, su questo sfondo posso chiarire ulteriormente il primo cenno che faceva la signora Maria quando faceva riferimento alla presentazione di questa Bibbia, no, che ho fatto durante la trasmissione a sua immagine, no, sulla Rai. Di che si tratta? Cioè, noi oggi viviamo in un mondo che è molto diverso da quello anche solo di 20 anni fa e il modo di accostare la Bibbia è cambiato molto. Un tempo l'unico modo di accostare la Bibbia era l'arte, pensiamo ai tempi antichi, il codice più antico per spiegare la Bibbia da parte per comprendere la Bibbia da parte della gente più semplice, qual era? Era entrare nelle chiese e guardare tutti gli affreschi che c'erano, la cosiddetta Biblia Pauperum, la Bibbia dei poveri. Poi pian piano la gente ha cominciato a imparare a leggere, imparare a scrivere, allora si è passati non solo da una conoscenza visiva o uditiva, perché anche la predicazione ovviamente ha avuto il suo impatto, ma si è cominciato a leggere, a ripercorrere le pagine della scrittura. Poi si è cominciato a rappresentare tutto questo. Anticamente c'erano i drammi sacri, le opere teatrali più antiche, ricordiamo il Quaresimale, poi è cominciato a venire avanti il cinema, le grandi composizioni musicali, tutto un modo in cui la Bibbia ha continuato ad essere trasmessa, l'arte, immaginate il linguaggio dell'arte. Oggi, accanto a tutto questo, ci sono anche le modalità della tecnologia contemporanea. Ecco, allora questa edizione della Bibbia, la Bibbia digitale, Bible World, così come abbiamo chiamato questo prodotto, è un prodotto scaricabile su iPad, solamente su iPad, tengo a precisare questa cosa, è praticamente un'app, un'applicazione, quindi un linguaggio molto contemporaneo, grazie alla quale si può accostare la Bibbia leggendo ovviamente il testo, ma non solo leggendo il testo, ci si può immergere nella ricostruzione tridimensionale dei mondi della Bibbia, per cui si può vedere com'era la Gerusalemme del primo secolo in 3D, si può vedere com'era il Tempio di Gerusalemme in 3D, si possono ripercorrere i viaggi degli apostoli e così via. È un prodotto che declina la Bibbia secondo i linguaggi contemporanei. Questo per dire cosa? Quando lo spirito c'è, lo spirito permette di declinare, di rendere accessibile la Bibbia a tutti. Un tempo il parlare in lingue era rendersi comprensibili a tutti. Oggi, se lo spirito agisce ancora, sa comunicare lo stesso messaggio attraverso tutti i linguaggi della cultura contemporanea, dai linguaggi della tecnologia ai linguaggi musicali, al linguaggio cinematografico, al linguaggio della lettura, dell'arte e così via. Sono la molteplicità dei linguaggi che rendono accessibile l'unica parola, quella con la P maiuscola. Grazie Maria per il tuo intervento carico di interrogativi. Pronto? Pronto Don Giacomo? Sì, con chi parlo? E buonasera, sono Lelio. Ascolti, io ho avuto la fortuna di parlare con lei questa primavera, prima della festa di Santa Rita, era intorno a maggio, e lei mi ha parlato di Chiara Luce, no? Che io ho letto La Vita, che è un esempio bellissimo, sposa del Gesù abbandonato e crocefisso, come Chiara Petrillo, un altro esempio, no? Ecco, io volevo fare questa domanda, che forse non è proprio in te, ma siccome ieri ho visto la fiction Bachita, no? Tutte queste mistiche erano legate al Sacro Cuore, no? Ecco, il Sacro Cuore parla proprio della misericordia di Dio, di cui ci parla anche il Papa Francesco, no? Che nonostante tanti peccati c'è sempre la misericordia di Dio, no? Ecco, siccome il peccato lascia un amaro, e questo amaro uno lo sperimenta e poi lo sperimenta ancora, lo sperimenta ancora, lo sperimenta ancora, a come incontrare esistenzialmente, come hanno fatto queste ragazze, superare il senso di tutta la misericordia di Dio, al di là delle devozioni teoriche, tra virgolette, che non sono teoriche, le preghiere, ma come viverlo, un suo consiglio, esperienzialmente, grazie, l'ascolto per radio. Grazie di cuore, Lelio, per questa domanda. Ora, di fronte anche a una domanda del genere, che è molto impegnativa, si potrebbe, come dire, ogni risposta è parziale, quindi metto subito le mani avanti dicendo il suggerimento che io ti do è un suggerimento che darei a me stesso, ma che nasce dalla mia esperienza, che è un'esperienza comunque ridotta. Parziale, quindi tieni presente questo. Io risponderei con le parole che utilizzava il mio fondatore, perché le sento molto vere, no? Lui diceva: nel cammino cristiano di ogni discepolo, l'azione dello spirito consiste sostanzialmente in una cosa che non dobbiamo lasciarci mai sfuggire, e questa cosa è formare. Cosa fa lo Spirito? Lo Spirito forma il Cristo dentro di noi. Tutta la vita cristiana, lui dice, è questo: lasciare che lo Spirito plasmi il Cristo dentro di noi. Quindi la vita cristiana è permettere a Gesù di crescere dentro di noi, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Crescere nel nostro modo di parlare, per cui le nostre parole, anno dopo anno, con l'invocazione allo Spirito, dovrebbero essere parole che rendono sempre più presenti il Cristo in noi. I nostri gesti dovrebbero esprimere, essere prolungamento, qui usa proprio questo termine, dei gesti di Gesù, da allora ad oggi. Le nostre scelte, e così via. Quando noi contempliamo i volti di queste grandi figure, da quelle contemporanee a quelle che hanno cambiato la storia, notiamo che queste figure incarnano tutti un aspetto o più aspetti di Cristo. Lo Spirito Santo ha la capacità di suscitare nella storia la risposta di Gesù per quel momento storico. Per cui, non so, c'è stato il periodo delle grandi congregazioni dedicate alla carità, era la risposta dell'amore di Dio ai bisogni di quel tempo. C'è stato il momento dei movimenti, che è un pochino quello dei movimenti di adesso, no? Pensate ai focolari, neocatecumenali, rinnovamento dello spirito, Sant'Egidio. Tutti questi movimenti che sono il segno di uno spirito che si rende presente nel tessuto sociale di oggi attraverso una particolare sottolineatura, è il Cristo che si rende presente attraverso lo spirito. E questa azione che viene fatta così in grande si nota anche nel piccolo, nella singolarità delle persone. Guardate, io stamattina, sapete, il mio servizio all'interno della congregazione è quello di guidare le edizioni San Paolo, no? La direzione editoriale della casa editrice, e quindi questo mi mette a volte a contatto con delle figure che sono particolarmente segnate dallo Spirito Santo, e stamattina proprio per questo servizio sono andato a incontrare Monsignor Capovilla, futuro cardinale, che è stato 98enne, ma io vi dico, io sono stato a parlare con lui un'oretta stamattina. ascoltando quest'uomo di 98 anni, avevo come la sensazione che quest'uomo, mentre parlava, avesse, come dire, guardasse il mondo con gli occhi di Cristo, perché in ogni parola non era un piccolo mondo che veniva messo sul tavolo, ma erano orizzonti enormi, orizzonti che io da solo mi sogno, cioè manco riesco a volte a immaginare. Ma perché? Ma perché sono uomini che hanno dedicato una vita a lasciarsi plasmare dallo Spirito, e lì lo vedi in azione. Oppure ricordo sempre l'incontro di alcuni mesi fa con Madre Elvira, la fondatrice della comunità Cenacolo, questa donna umilissima, ma che è proprio perché docilissima nelle mani dello Spirito, ha creato, ha fatto nascere tante realtà che ridanno vita ai giovani e non solo ai giovani. Anzi, domani è il suo compleanno, le facciamo proprio gli auguri a questa donna di Dio, perché non si può definire in altro modo. Una donna che comunica veramente solo e unicamente la presenza di Dio. Ecco, quando si ha a che fare con queste persone si capisce cosa vuol dire permettere allo Spirito di plasmare il Cristo in noi. Ecco, nella lettera ai Galati Paolo, scrivendo proprio ai credenti della Galazia, lui, dopo aver elencato le opere della carne che frantumano l'uomo, dice: lo Spirito invece ha un frutto solo, che è l'amore. Lo Spirito crea, ci rende capaci di amare. E cosa significa amore? Significa gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose, dice Paolo, non c'è legge. Siamo al capitolo 5 della lettera ai Galati, versetto 22-23. Ecco, qui in sintesi c'è quell'azione che lo Spirito opera dentro di noi, no? Quando lasciamo che lo Spirito entra e come dire, scalfisce, trafigge il nostro cuore, lui toglie le opere della carne e lentamente le sostituisce, plasma in noi questi frutti dell'unico amore, no? Queste dimensioni dell'unico amore. Grazie quindi, Lelio, per la tua domanda, che anche questa è andata proprio alle radici dell'azione dello Spirito. Mi dicono dalla regia che il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi permettetemi di ringraziare quanti sono intervenuti con i loro interrogativi e che hanno arricchito questa nostra conversazione. Antonello da Olbia, Michele da Pescia, Sergio dal Veneto, Maria della Sardegna e Lelio che ha concluso i nostri interrogativi. A tutti voi auguro davvero ogni benedizione e preghiamo vicendevolmente perché lo Spirito continui a operare dentro ciascuno di noi, plasmando anche in noi i tratti del Cristo. Una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.